Eccoci qua, nuova puntata di Passaggio a Nord-Ovest, seconda parte dell'intervista al Cobas Ataf. Ecco, hai introdotto l'argomento, quello che ti volevo chiedere, l'ultimo sciopero è di novembre? No. L'ultimo sciopero è stato di dicembre. Di dicembre. Ecco, su cosa verteva? Verteva intanto con la partenza della linea tranviaria, c'era questa riduzione di chilometri e quindi una possibilità di esuberi di personale. Questa era la prima cosa che vedeva, era su questo, sulla garanzia occupazionale che finché non c'è stato questo accordo fonte famoso, le aziende continuavano a giocarci intorno su questa cosa, e diciamo più tecnicamente era su questa cosa qui. Poi c'era anche anche delle rivendicazioni interne che erano dovute a quello che si diceva prima, ai disagi dovuti al traffico, ai disagi che io so quando la mattina monto, ma non riesco mai a sapere mai quando riesco a smontare in ritardo, e la fruizione delle pause tra un pezzo e un altro di guida, considerato che noi si guida settore e un quarto, e a volte dopo 4 ore, 4 ore e mezzo che sei su un autobus, forse a volte scendere per fare due passi o perlomeno anche andare a un bagno, è essenziale per poter staccare un attimino, perché si porta voi, insomma, la nostra, in a caso, purtroppo gli incidenti ultimamente ne è avvenuti, insomma, dovuti al traffico, dovuti a quello che voi, però ecco, quindi, e poi è anche una condizione in cui lavori, perché nel momento in cui sono più anche teso, dopo un po', che dopo 4 ore e mezza magari devo andare a bagno, non c'è il verso, perché non posso lasciare un autobus in mezzo e andare, bisogna arrivare a un capolinea, bisogna arrivare a un posto mio per cosare, e magari sta lì nervoso, capisco l'utenza, la capisco ma non la comprendo, nel momento capisco l'utenza e magari 40 minuti che aspetta un autobus, vede me e mi dice ma non sei stato finora, sta prima, cioè, capisco che cosa, ecco la risposta, sta diventando, cioè, migliore, se riusciamo a migliorare le condizioni di lavoro nostre si migliora anche il discorso del servizio, perché si evita questa guerra tra poveri, tra noi siamo sulla stessa barca, io che magari riesco un pochino più a parlare, insomma, ad altri riguardi, a spiegare, e poi alla fine il cittadino capisce benissimo sulla stessa barca, perché a volte vociando vociano sopra e lui via, quasi scherzando dice picchiami, mi può picchiare, poi quando dici in questa maniera ti rimane un attimo, capisce lo scherzo e forse riesci anche a fargli capire, guarda, io sono stato finora di sopra, che io a questo e dovevo essere a farmi la mia pausa, a prendere un caffè per poter rimontarsi un altro autobus. Questo è quello. E questo era uno sciopero indetto dall'RSU? Dall'RSU, di cui noi come Coba siamo all'interno e siamo la maggioranza. Ecco, ti volevo chiedere, appunto, andando anche un po' indietro dal punto di vista sindacale, il Cobas Ataf anche all'ultima elezione per l'RSU sto maggioritario. Sì, sì, abbiamo avuto doppio sulla CISL di voti e il triplo sulla CGL, insomma siamo riusciti ugualmente a avere un grande consenso in questi anni. Ecco, quando è stato formato il Cobas Ataf? Il Cobas Ataf è stato dettato nel 2099? Eh sì, sicuro del costo. 2009? No, scherzi davvero? No, ha detto 2009. 99. L'esperienza è stata da lì, mi sembra, nel 2000. Ecco, perché avete pensato a costituire il Cobas Ataf? Ma sai, quello penso perché i Cobas nascono un po' dappertutto, perché la non più sentirsi rappresentato da confederali da questi sindacati lì concertativi, questo penso sia la cosa principale, meno male. E poi all'interno nostro, insomma, una coscienza sempre di lotte, di movimenti, praticamente di cominciare a fare qualcosa anche all'interno dei posti di lavoro, nella propria autonomia e con il rispetto dei lavoratori, con soprattutto l'appoggio dei lavoratori e il consenso dei lavoratori. Io continuo a dire sempre a tutti, sono un portavoce dei lavoratori, non posso, non prendo una decisione sia mia che se stesso se non ho il mandato dell'Assemblea dei lavoratori. Quindi penso che questa sia la cosa anche che riesca, anche perché all'interno delle RSU le elezioni in cui tutti i lavoratori possono votare a questo punto qui, magari l'iscrizione continua, il lavoratore medio continua a tenerla sempre sindacato confederale, padronale, come si può dire, perché gli può servire per l'appoggio, per il giorno di ferie, per la cosa più cosa, però quando poi all'interno dell'urna sa bene o male per scegliere, quindi sceglie, magari, ecco, noi abbiamo molti, molti doppio dei voti degli iscritti, per dire, all'interno dell'RSU. Ecco, i Comas ATAF, al di là delle vertenze diciamo, di carattere generale, diciamo, di quelle che sono le vertenze rispetto al contratto collettivo nazionale di lavoro, in cosa si contraddistingue rispetto magari anche agli altri Comas, sempre delle aziende di trasporto pubblico in altre parti d'Italia? Ci sono delle vertenze particolari rispetto a Firenze oppure più o meno le problematiche, quindi anche diciamo, le parole d'ordine dei Comas ATAF sono simili a quelle di altre città. Ma sai, all'interno di trasporto pubblico locale ci sono varie sigle sindacali di base, sono tutti presenti, dalla CUB, dall'USB. Diciamo, sono molto frammentate, nel senso che in una città è più forte, potrebbe essere più forte a Firenze o più forte Cobas, magari a Roma è più forte l'USB, a Spezia noi siamo come Cobas, a Venezia invece c'è l'SGB, altre sì che si dà. Sì, le parole d'ordine, bene o male, sono un po' le stesse, infatti Quindi riusciamo su determinate vertenze, su determinate cose, a riuscire anche a fare delle cose come coordinamento, diciamo, autoferro-tranvieri. Poi purtroppo le divisioni sindacali all'interno dei sindacati di base, però qui ci vorrebbe tutto altre, forse altre tre o quattro trasmissioni su questo per poterle, e forse non arriveremo a niente, ecco. ecco, però ecco, diciamo, la domanda era un po' anche per capire se le problematiche dei lavoratori Di Firenze sono uguali a quelli di Roma, sì. di Roma, di Di Venezia. Roma e di Ora, Venezia, di sì. Venezia, vabbè, ci avrà una particolarità tutta sua, Venezia, Di diciamo, di Milano, sì, sono gli Napoli. stessi, lo stesso. La privatizzazione è partita a Firenze, ma sta prendendo tutto, cioè si vede sui giornali, Roma è sotto concordato, a rischio di fallimento. Dietro le grandi città si arriva un po' al discorso di Bus Italia, no? Che è quella che ha acquistato noi, quella che ha acquistato in Umbria, che sta acquistando varie parti e sarebbe interessata anche a Roma, se è presente, Sta interessata a diventando un Napoli. Sta colosso, diventando insomma. proprio un colosso. Loro stanno questa politica sul colosso del trasporto pubblico. Sono interessati però, allora, chi c'è dopo dietro Bus Italia? Si è detto Trenitalia, quindi praticamente le ferrovie, ok? E sono interessati però alle grandi città o alle città d'arte o alle città dove, perché sono, guardate, tentano e puntano nelle città in cui arriva l'alta velocità. Lo scopo di Mazzoncini, no, era quello, è sempre stato, secondo me, Mazzoncini è l'amministratore delegato alle Ferrovie dello Stato, è che è stato l'amministratore delegato di Bus Italia per anni. È quello di poter far arrivare il cittadino con l'alta velocità a Firenze, a Roma, a Genova, lì scende e trova l'autobus Bus Italia. Fateci caso, guardate un attimo, il logo di Bus Italia, ex Sita, è uguale al logo dei ferrovieri di ora, hanno la stessa forma, gli stessi colori. Fateci caso e vedete che sono gli stessi, lo stemma è lo stesso praticamente tra Ferrovie dello Stato e Bus Italia. Quindi è proprio un marketing che vuole fare, insomma, un monopolio, ecco. Quindi anche, diciamo, come dire, una visione del trasporto che sempre più distante da quelli nelle città o comunque nelle periferie ci abitano veramente, ecco. E certo, meno male, la politica è quella. La politica è stata delle ferrovie dello Stato, è stata chiara, alta velocità a discapito dei treni regionali. E qui si fa linee d'élite, diciamo, si tenta, ora è stata persa, ma insomma, la tranvia, si pensa alle linee di collegamento a tranvia forti, alle linee d'adduzione forte, però il resto, le altre, come si è detto, i cittadini di nord-ovest, della trasmissione che di cui si sta parlando, a Firenze non si portano, si lasciano alla periferia di Firenze, insomma. Ecco Alessandro, e per quanto riguarda il contratto nazionale degli autoferrotranvieri, Il com'è la contratto situazione? nazionale autoferrotranvieri si sta praticamente si è stato fatto nel 2015, quindi siamo in scadenza, stanno cominciando a riragionare. Sul discorso del contratto nazionale degli autoferrotranvieri, noi come Cobas, ma insieme anche altri, abbiamo aperto una vertenza particolare perché sta entrando nel mondo del lavoro il famoso fondo pensione, praticamente il welfare aziendale. Cosa sta succedendo? Cosa è successo? Con il contratto del 2015, praticamente, le aziende, invece di l'aumento salariale, una parte te l'hanno dato in soldi, una parte, 100 euro, sono state date, l'hanno chiamato in welfare aziendale, di cui 10, per una, 10 euro per una polizza sanitaria. 90 euro invece andavano messi nel fondo pensioni di categoria, che in questo caso è il fondo Priamo. Queste 90 euro sono state messe dalle aziende. Cosa hanno portato? Hanno portato l'iscrizione automatica al fondo. Cioè, io che ho fatto per anni e ho sempre detto non voglio essere iscritto a un fondo pensionistico, ora come ora mi ritrovo iscritto al fondo. Attualmente mi trovo iscritto in modo contrattuale, cioè l'azienda mi ha versato questi soldi. A me mi è arrivata una lettera da parte di Priamo in cui dice: benvenuto Alessandro Nannini, benvenuto, il tuo numero di iscrizione è questo, il tuo Primo codice. sarebbe il nome del fondo pensioni. Priamo è il fondo di nome pensione, sì, scusate, cosa. Benvenuto, questo è il tuo numero di iscrizione, questa è la tua password, questo è il tuo username per entrare e gestire le cose. Non mi tolgono attualmente, non mi viene tolto attualmente quello che sono gli altri, diciamo, quello che ha aderito volontariamente, non mi tolgono né una parte di TFR, per il momento resta in azienda, né una parte di salario. Però, a parte il fatto che questo era già questi 90 euro erano salario mio e vengono dati all'anno per questo fondo, mi trovo iscritto in un fondo. Chi mi dice che il prossimo contratto nazionale, visto che si parlava, non venga detto e dal momento in cui mi hanno iscritto io debba versare anche un tot di questo? Su questo abbiamo aperto una battaglia legale, eccetera. Già a suo tempo abbiamo all'inizio, quando uscì il contratto nazionale, come lavoratori in gran parte di città dove ci siamo, abbiamo fatto un ricorso all'azienda dicendo: bene, te non mi devi non voglio che tu vada a darmi. Non voglio che tu vada a darmi i miei dati e l'iscrizione, cosa non è avvenuta. All'inizio hanno dovuto, cioè questa cosa via ha un po' rallentato, perché è partita un po' in tutta Italia, ha rallentato questo passaggio a questo fondo perché la Confip, che è l'organo che controlla i fondi pensione, li ha bloccati dicendo che dovevano cambiare prima lo statuto, perché per statuto del fondo chi si iscriveva doveva versare anche una quota di TFR. Hanno dovuto cambiare lo statuto. Una volta cambiato lo statuto, hanno fatto un comparto contrattuale e io sono iscritto a questo comparto contrattuale. Su questo noi ci stiamo vertendo, ci sono i nostri legali che stanno preparando una vertenza, che sarà una vertenza grossa, perché ci andiamo a scontrare, bene o male, contro i colossi della finanza, perché dietro c'è questa cosa. Però partiamo dal fatto che io non voglio essere iscritto a questo fondo. Mi dai 90 euro? Non me le dare, se non me le vuoi rimettere in busta paga non me le dai, però io contrattualmente per principio a un fondo pensione non voglio essere, perché scontriamo i fondi pensione, sono stati quelli, hanno distrutto le pensioni, come le polizze sanitarie sono quelle che hanno distrutto la sanità pubblica. Sì, infatti da questo punto di vista diciamo, ci sono dei precedenti oramai insomma, molto esemplificativi, esemplari da questo, insomma, che, come ha detto prima, insomma, no? Come ha detto lei, cioè, da un lato distruzione della sanità pubblica, dall'altro problemi rispetto alle pensioni proprio, perché alcuni fondi pensione, magari non in Italia, ma comunque in altri paesi in cui sono cominciati ad essere propinati, diciamo, prima in Italia, insomma, hanno lasciato anche i pensionati, insomma, sul lastrico, ecco. Certo. Certo, purtroppo è questo, cioè continuiamo a dire che TFR in azienda cioè, è un investimento sicuro, un reddito di 1,50% c'è fisso, gli altri invece vanno sulla speculazione. Ma questo è stato lì perché il fondo pensione di per sé stesso, da quando sono partiti, secondo me non hanno mai avuto in Italia purtroppo, in tutte le categorie sono rimasti poi. E adesso, questo, e contrattualmente è successo già con metalmeccanici, sta succedendo con noi, con la Poste, sta succedendo in altri posti, che contrattualmente vieni praticamente iscritto, è successo con l'industria, è successo con gli edili, la cassa edile, che praticamente contrattualmente una parte del tuo salario, invece di andarti a aumentare, invece di prendere 150 euro d'aumento, ne prendi 100 per dire, e 50 te le mettono in fondo pensione e ti iscrivo, serve per gonfiare i fondi, perché a questo punto il fondo pensione di Priamo, se prima quello autoferrotranvieri, se prima c'era soltanto il 10-15%, adesso il 100% dei tranvieri è iscritto ai fondo. Quindi contrattualmente questi hanno un peso diverso quando andranno a fare le sue speculazioni dicendo io ho dietro 100.000 lavoratori rispetto a 20.000, ecco. Ci sentiamo un altro pezzo musicale e riprendiamo tra un po', l'intervista. Girl, they say you wasn't home. And the second time I tried it, look, they say you want to be left alone. We had a lover's quarrel, yes we did, like all lovers do. I'm ready to make up. Riprendiamo la nostra intervista e fino ad ora abbiamo parlato a fondo, diciamo comunque abbastanza rispetto ai disagi dei cittadini. Ecco, quali sono i disagi anche proprio da un punto di vista fisico per i lavoratori ATAF seduti per ore Sui mezzi, sull'autobus, insomma, o comunque nel mezzo al traffico? Allora, innanzitutto cominciamo a dire i problemi di schiena. Non c'è un tranviere che non ha un NL disco, che non ha qualcosa sulla schiena, perché la postura con gli autobus purtroppo è dura. Su questo, in più, ripeto, il nostro disagio è quando sei tutto, sembra una sciocchezza, però è il bagno, ad esempio. cioè un qualsiasi lavoratore, ora non guardiamo quelli ultimi, purtroppo li lavorano nei paricelli commerciali che hanno i braccialetti e magari non si possono nemmeno assentare, ma diciamo nella norma un lavoratore ha un bagno e coso, se gli scappa la pipì diciamo va a farla, io se mi scappa la pipì bisogna che aspetti la finita il mio turno, okay? E poi vorrei arrivare in capolinea, ma il capolinea dove c'è, non c'ho i miei capolini, il bagno in capolinea, quindi devo trovare i bagni convenzionati, insomma quello è diciamo un disagio sul marino. E questo va sì che alla fin fine a livello urinario, a livello osso ci sia delle problematiche, specialmente quando uno è costretto oltretutto a stare 40-50 minuti fermo, fermo in mezzo ai traffici, più di 40 minuti della corsa, insomma. No, ma sai, poi quando arrivo ai capolinea, se non c'ho tempo di ripartire è difficile. È difficile poter scendere a un capolinea quando c'è la gente che aspetta magari 40-50 minuti, scendo e gli dico scusate vado a far pipì, e a volte è preferibile reggerla, ma so dire ripartire, ecco, perché quello lì su questo cosa qui. Questo poi diciamo consideriamo che si fa un lavoro, siamo ogni anno veniamo controllati fisicamente per le tossicodipendenze, cioè tutto il coso, cioè un lavoro in cui lo stress è grosso, bisogna stare attento, cioè anche quando prendo qualche cosa, cioè un semplice mal di testa, a volte si dice incide molto la malattia nei tranvieri eccetera, ma io ho un semplice mal di testa, se prendo un analgesico o qualcosa veramente non potrei guidare. Cioè, qualsiasi cosa io prendo che mi fa cosare, c'è il raffreddore, l'antidoping, sì, capito, cioè, ma guarda, non la dovresti prendere, ma anche perché doping per lo sportivo, ma anche perché cioè, per il semplice mal di denti o qualsiasi cosa, un antidolorifico vuol dire cioè per me avere una condizione riflessa anche minore rispetto a questo, quindi ecco perché a volte dice la malattia nell'autoferrotranvieri è alta rispetto alle altre categorie, ci sono perché ci sono determinate cose che è una categoria che magari c'è mal di denti o un semplice mal di testa può causare, io un semplice mal di testa se devo prendere qualcosa teoricamente sono a rischio se succede qualcosa. Oltre al fatto che non è che puoi guidare senza l'analgesia perché il mal di testa non ti impedisce di usarlo. Se prendi l'analgesia nello stesso momento non potrei perché rischio sonnolenza, e purtroppo se oggigiorno quando c'è l'incidente la prima cosa che fanno tutti i test, e se risulti che ci sia qualche cosa di questo genere qui, è successo, e purtroppo è successo anche ultimamente a un collega che aveva preso il naso per cosare, cioè c'era delle sostanze dentro, sembrava fossero sostanze dopanti quasi, no, capito, quindi subito era venuto fuori questa cosa, lì l'hanno fermato eccetera eccetera, poi è stato giustificato perché c'era la ricetta media perché ha preso questo e per lavorare l'ha preso. Quindi capito, cioè queste cose lì. Quindi su questo è un po' la difficoltà, insomma, su queste cose lì, le malattie. Purtroppo abbiamo queste patologie, ti ripeto, schiena, circolazione, le vie urinarie, queste sono tutto. Per non parlare di circolazione alle gambe. Sì, perché capito, queste cose, quello riesci praticamente anche stando sempre a sedere o sedurino sotto le gambe tagliano. Poi senza considerare poi, noi le parliamo, io e te siamo maschietti, si parla da maschietti, ma non consideriamo anche che adesso ci sono anche tante colleghe e queste hanno anche loro, cioè secondo me, delle necessità ancora maggiori rispetto, e non c'è una tutela sufficiente, non c'è una diversificazione tra uomo e donna su questa cosa qui, sulla malattia, su varie cose. Considerate poi la malattia a noi incide sul premio risultato. Cioè il primo risultato, cioè i soldi che alla fine dell'anno ti danno come premio per avere, che fa parte dello stipendio, un stipendio, va in base anche a quante volte vai a lavorare, in quasi il tipo di malattia che si ha. E pensa insomma a una donna in determinati periodi insomma di mese, cioè non è facile, come io ho difficoltà andare in bagno, immaginate lei se ha bisogno di andare in bagno, una situazione di genere, capito? Diventa cioè ancora peggio, insomma c'è tutta una serie di cose anche diciamo per le condizioni femminili, la parità che non è ancora all'interno degli autoferrotranvieri, secondo me è ancora molto lontana su questa cosa. Ecco, diciamo il COPASSATAF sono lavoratori ma sono anche cittadini. Soprattutto. E quindi partecipano a volte spesso alle iniziative che, diciamo al di fuori, ecco, di quelle che sono le iniziative, le vertenze sindacali. Sì, giustamente come dicevi te, siamo cittadini, bisogna guardare, cioè, all'interno dell'azienda poi uno fa sindacato, però bene o male fa sindacato, oggigiorno vuol dire anche occuparsi di quello che è l'ambiente, di quello che è la situazione, durante la vendita contro la privatizzazione, insomma eravamo il motore trainante del comitato contro le privatizzazioni, e all'interno di Cobas, all'interno, per dire, anche di altre aziende, mi viene in mente Cobas Quadrifoglio, sul discorso della battaglia dell'inceneritore. Io credo che l'unione tra lavoratori, chi lavora nel settore, e utenti, di cittadini, sia la cosa fondamentale su determinate battaglie di civiltà per l'ambiente, eccetera, eccetera. Perché io dall'interno riesco a vedere, riesco a sapere delle cose e te dall'esterno non vedi. Te dall'esterno hai una visione che io magari all'interno come lavoratore non posso avere. Quindi, cioè, se riusciamo a unire le varie vertenze, le varie forze tra chi sono i comitati fuori, che lottano, e i lavoratori, credo che a quel punto lì si vada sempre verso una risoluzione e una vittoria delle battaglie. Altrimenti, finché continua ad esserci la divisione, purtroppo, si torna lì, c'è una divisione all'interno e una divisione che non aiuta la vertenza, non aiuta la battaglia, secondo me. Il futuro? Il futuro di trasporto lo vedremo tra qualche giorno qui a Firenze, quello qualche giorno per modo di dire, quello che succederà. Il futuro io lo vedo abbastanza, per quanto riguarda il trasporto, non lo so, mi sembra sia veramente andato su una china di ormai della privatizzazione, ormai il diritto alla mobilità è un diritto ormai il cittadino sta perdendo. Spero si possa riacquistare, rimanendo qualcosa. Qui sulla mobilità la vedo, ma come vedo su tante cose, il cittadino ha perso sulla sanità, sta perdendo sulla scuola, su quelli che sono i diritti, diciamo, fondamentali, forse. Prima erano diritti e principi fondamentali. Qui si sta perdendo una battaglia perché si è andato di mezzo il capitale, secondo me sta vincendo. Non è più il capitale capitalista della fabbrica, ma qui c'è degli interessi forti. E il trasporto pubblico ci sono degli interessi forti perché sono investimenti che a zero. Chi vinceva, per dire, una gara, per tornare sulla gara toscana, chi vinceva questa gara veniva e si prendeva 190 milioni l'anno tranquillamente, senza prendendo posti di lavoratori, senza investire niente. Cioè non c'è rendimento oggigiorno, non c'è cosa che te hai un investimento, un reddito sicuro di 190 milioni l'anno. Quindi ecco che si muove dietro il grosso capitale. Proposte per evitare questo futuro, appunto, me lo sta disegnando? Proposte per questo futuro, forse molto in mente a quello si tornava, a quello si diceva prima, l'unione della forza tra chi all'interno del mondo di lavoro vive queste cose e chi questi servizi li deve soffrire, sia nel trasporto, sia nella sanità, sia nella scuola. Secondo me è questo, cioè, secondo me, riuscire a fare un'unione, fare un gruppo comune. Perché lo scopo è lo stesso, lo scopo è un diritto, il diritto alla mobilità, il diritto allo studio, il diritto alla sanità. Chi ci lavora vuole, perché è prima di tutto lavoratore, ma anche prima di tutto cittadino, soffrisce di trasporto, soffrisce della scuola e che soffrisce della sanità. E quindi è logico se è cittadino e lavoratore. E nel stesso tempo è l'unione di queste cose, secondo me, è l'unica possibilità che c'è per andare a capovolgere e a riuscire a muovere qualcosa di questo genere. Ce la faremo, eh? Sì, spenta, hasta la vittoria sempre. Ringraziamo Alessandro, ricordiamo che siete stati, sarete, se continuate a rimanere sintonizzati o comunque in streamingizzati, all'ascolto di Radio Wombat e quindi di Passaggio a Nord-Ovest. Ricordiamo la... State sentendo il lunedì in diretta e alle 14.30 e dal martedì fino al venerdì sempre alle 14.30. Per riascoltarla successivamente, per riascoltarla meglio, per scaricarla e ascoltarla meglio ancora, podcast sempre sul sito di Radio Wombat, wombat.blogs.org. Ciao ciao, alla prossima. Ciao ciao, ciao ciao a tutti e a tutte.